Vai, Riccardo, riprendo. Ok, riprendo, sì, come hai detto, questi Switching, come hai detto tu, hanno la ventola, ma non ho capito, come questo alimentatore pesa, quanto pesa, 20 kg? Boh, cosa hai detto, no? Non mi ricordo, ho perso la memoria. Ma il mio stai parlando? Del tuo. Il mio è l'accetto, è un'industria, un'azienda che costruisce solo alimentatori per uso professionale, uso per stazioni bloccate, cose grosse, per uso gravoso, quello non è a ventola, pesa 20 kg perché c'è un trasformatore da paura, c'ha dei finali che stanno lavorando al 30%, ci sono 7 finali, sembra c'è il 30-55, 7 che teoricamente questo può dare 120 ampere continui, questo alimentatore, però l'hanno fatto lavorare in modo che ne dà 60, per cui non ha bisogno né di ventola né di niente, c'ha dei grossi dissipatori, ma c'ha un circuito di protezione e di filtraggio da paura, ci sono dei condensatori spettacolari, e poi c'è un altro, un 30 ampere lo stesso continue, quello pure con la ventola. Quello ogni tanto, qualche volta, per dire, lo usavo all'inizio quello, con una piena potenza, quando gli chiedi potenza all'apparato, dopo i 20 ampere piano piano si inseriva ogni tanto, però non c'ha niente a che vedere con quello dell'accetto, con l'accetto è un altro pianeta, infatti cercateli su internet, ci sono di tutte le potenze, anche da 150 ampere ne fanno, costruiscono solo alimentatori, l'accetto, per uso gravoso 24 ore su 24, ok, riprendi Gianfranco. Sì, ma anche quelli switching ci sono H24, noi ne abbiamo tanti, oramai è raro vedere quelli a trasformatore, perché prima perché sviluppano soprattutto in ambiente informatico molti campi magnetici e poi perché hanno il brutto vizio spesso quando parte qualcosa di dare corrente a vanvera, non hanno proprio delle belle protezioni, mentre lo switching nel momento in cui succede qualcosa muore e basta e toglie corrente, quindi è una bella cosa questa, non ti espone a rischi. Scusa Gianfra, se permetto, c'è stato un break avanti. Ah, mi sembra la preparazione. Ma sei Gianni da Porto Torres? Gianni da Porto Torres, perché sta uscendo così bas? Santiago sì, radio però 2-3 già, non ti sento bene di radio, c'è un po' di correme. Vediamo se Gianfranco ti ascolta meglio e poi Riccardi. Aumenta un po' la voce, ho già, se sei tu. Sì, Gianni, sì, ti ho detto Santiago 7, radio 5, va bene. No, io c'ho correme alto, lui è mezzo al correme, l'ascolto radio 2-3, certi passaggi è abbastanza chiara, ma in certi momenti non riesco a tirarlo fuori. Io qua, questa postazione qua, purtroppo correme ce l'ho non meno di 5, sempre 5-6, lui un po' di più, lui è quasi 6. Se hai passaggio da 6, il correme è di lì, 5-6 mi arriva. Ok, ti mi ascolti a me già, bene mi dicevi? Mi sa che Riccardina però lo riceve meglio di tutti. Sì, lo ricevo meglio. No, non stai andando bene, non sollevare niente da questa parte. C'è stato un importante, Robè ti stava coprendo, ci credi? Boh, addirittura. Sì, anche adesso, quando parli tu? Vuol dire che sono antipatico, lo devo dire. A me non me ne ha fatto nulla. Se vuoi mettere importante che si diverta, lo devo dire. No, forse sei tu che hai abbassato la radio. Hai abbassato troppo la radio, Robè. Anch'io lo sento, ma lui a me non credo che mi senta, perché sto andando quante qua tu. Non c'è neanche la sala di potenza. Ah no, ciao, l'altro. Non sanno neanche i 5 watt, forse 3 watt. Cioè ho abbassato io la radio. Sì, sei molto più basso, allora non è importante, però sei basso. Forse mi sono un po' allontanato dal microfono, questa è la mia posizione, qua sembra tutto bene, io non ho toccato niente. Oh, strano. Ma sono più basso di radio, dici? Sì, la radio è molto più bassa rispetto a prima. E boh, io non ho toccato niente, non vuole che il microfono stia facendo le bizze, qua è tutto a posto, boh. Muovi no. Come Gianfra? Muovi un po' lo spinotto, quella cosa lì. Boh, è nuovo, io non ho toccato niente, boh. Forse poco fa mi si è bloccato il lock, per errore ho toccato il lock del microfono. E in effetti è più bassa, sembrava un microfono normale, con tutta nulla. Ah, scusa qua, eccolo il problema, stavo usando il filtro voce, ho toccato il processore. Adesso già va bene, cacchio, mi stavo preoccupando, ho detto, ma non è successo? Siccome ho messo il filtro notch e ci ha inserito, sono andato a 10 secondi e ho toccato il processore. Adesso sto andando normale, confermi già. Sì, normale. C'è sempre il portatore che sta chiamando. Solo che avanti, perché a me non mi riceve sicuramente. Avanti Gianni. Ci sono io, che sono Alfa 21, poi c'è Gianfranco e Roberto Quadrato. Sì, era Roberto che si è abbassato. Ricadino qua, schiaccia a tutti probabilmente. Fatti dare un controllo di segnale, perché io a Gianni lo tiro con le pinze. Gianni, dai un controllo di segnale a me, a Riccardino e a Gianfranco. Cos'è che arriva a Santiago 5, così Riccardino? Non ho capito, Gianni, ma a me 5 oppure a Roberto? Robè, dici che abbiamo lo stesso segnale. Sì, sì, ma quanto? 5 ha detto. E la radio com'è? Chiara, ci riesco a arrivare lì? Uguale ha detto, perfetti. Ok, Gianfranco invece l'ascolti? Non ho capito bene cosa ha detto. Gianfranco non l'ascolta, così ha detto. No, non l'ascolta, devi cliccare il preamplificatore per ascoltarlo, se ho capito bene. Ma Gianni, in che zona sei il porto torre? Se sei dentro il porto, per arrivare così in basso, boh. Eia, ok, vai Riccardo, riprenditi. Eia, va bene. No, cosa hai detto prima, se ho capito bene Gianni, stavi chiedendo a Roberto da che zona modula lui invece. Come, non so dove modulo io Gianni, cazzo, ci è venuto tante volte. Come ha detto? Vabbè. Non ho capito, cosa ha detto? Non ho capito, ripeti, ti ha detto come, non ha capito lui. Tu gli hai fatto una domanda a Gianni che non sapeva da dove modulavo io, così. No, Gianni prima... aveva chiesto a te da che zona modulavi e poi si è cambiato il discorso e poi e così io ho ripreso la domanda per così lo sa. Ma di chi Gianni sta parlando? Doppio rumo di chi? Gianni che sta parlando adesso, Gianni di Porto Torres. Non è Gianni doppio rum, ma che cavolo, io pensavo fosse Gianni doppio rum. No, è Gianni di Porto Torres. Come fate detto, che strana questa voce, non riuscivo a capire, no, io sono Gianni, scusa, pensavo fosse Gianni doppio rum, scusami tanto, io sono Dona Stadio, Dona Quadrato, da quella zona lì, infatti non riuscivo a capire, ho detto, ma che strano, cosa, pensavo fosse in macchina, doppio rum, come l'ho detto allora, è l'amico di Eugenio tu sei, così, ok, no, infatti ho detto, ma che strano, Gianni pure arrivava molto forte dalla macchina, ok, riprendi Gianfra, tu. Non c'è cosa, io sto aspettando la pizza che arriva da un momento all'altro, appena suona il campanello devo interrompere, per cui vi sto già avvisando tra qualche minuto, se sono puntuali 10 minuti dovrebbe arrivare. Gianfra, una domanda a te. Sì, dimmi. Allora, tu c'hai diverse antenne, immagino, c'hai le, per le HF e quelle antenne per le V e le U, confermi? Sì, più 3 satellitari anche. Per i 2000 e fischia. Quante calate di cavo c'hai? Ma diciamo che dovrebbero essere 2 principali molto grosse di Celflex, poi ce ne sono credo interrate sono altre 6-7, oltre una decina sicuramente, perché ci sono 4 antenne HF, 3 antenne V, poi sul tetto ce ne sono altre tante, poi c'è quella del satellite anche, col motore, se proprio vogliamo esagerare, ce n'è un bel comunque di calate. Sono anche molto distanti comunque, circa ognuna è almeno 30 metri solo per il traliccio, poi altri 20 per la salita. No, questa domanda te l'ho fatta, quindi c'è una calata per ogni antenna, diciamo il sistema più efficace, sicuramente anche se è un po' problematico se c'hai i problemi di passare i fili, i cavi. No, la domanda mia è nata per il fatto che sto cercando io un relè coassiale o meccanico, però meccanico magari commutabile elettricamente, per passare dalle antenne diciamo HF, chiamiamole HF, anche questa della 27, e commutare un altro tipo di antenna per le V e per le U, altre 2 antenne, con un unico cavo, così evito di rimettere altri, che io ne ho 5 di cavo. Sì, devi usare un relè coassiale ovviamente, per l'UHF ti garantisco che a prescindere perdi. Tu figurati che prima che mettessi il Celflex andavo con 10 watt in UHF e ne arrivavano, nonostante l'ottima qualità dei cavi, perdevo almeno 4 watt giù di lì. misurati con gli strumenti, quindi immaginati con un relè cosa succede. No, ma mi ha detto Walter che lui è riuscito a buscarne uno meccanico, questo qua, un accumulatore meccanico, comandato elettricamente. Io infatti ho anche l'alimentazione su di cavo, ne ho 5 di antenne, però qui ho le parabole, eccetera, altre cose, e qui ho dei cavi per le disposizioni per il motore, quando c'avevo l'altra antenna motorizzata per le altre cose, diciamo. E utilizzare quel cavo di alimentazione per far funzionare questo meccanico della Magnum. Non so se tu li avevi visto in giro, ha detto Walter è un po' difficile da trovare, lo faceva la Magnum. Sì, guarda, stamattina ne ho visto uno americano. E quelli, siccome io ce li avevo, ma li ho dovuti staccare perché sono bruciati, e utilizzavo relè normali, ma solo esclusivamente per le HF. Però ho visto che i contatti non andavano troppo bene, a prescindere da relè, quindi si generavano sempre dei problemi. E quindi li ho staccati come protezione, ci ho messo degli scaricatori classici. Prima c'erano anche gli scaricatori a gas per le VHF, li ho dovuti togliere anche quelli, questo clima che c'è qua, se li ha rosicchiati come niente proprio. Quindi l'ho messo in diretta e la computazione, anche se molto meno efficace, la faccio da casa con le antenne in alta frequenza, con dei, come si chiamano, dei Delta, aspetta che mi metto il BC, tengo la marca, dei Delta, sì, dei Delta 2 e dei Delta 4, che sono dei commutatori dall'alfa a Delta, non so se li conosci. Anche quelli dentro hanno la cartuccia a gas in caso di problemi. E poi quelle attrezzature vanno bene, in HF comunque, c'hanno, anche se meccanico, più o meno è elettromeccanico come i miei, quando spegni stacchi l'antenna. Quello che ho visto americano, oltre a staccarti l'antenna, ti stacca proprio l'antenna invece, nel senso che stacca anche, stacca il coassiale, diciamo così, solo che ne vogliono 250 euro per una sola antenna, è una follia. No, questo qua è strano, dice, forse uno dei pochi che lo fa, perché ho chiesto anche a volte, lui dice ne ha solo uno, gli ha dato questo radioamatore, non so di Olbia, di dove sia, che ti fa le V e le U, e insieme ti puoi commutare le antenne anche HF. La particolarità di questo sistema è che ti può fare anche le V e le U e le HF con un unico cavo. È un sistema meccanico, elettromeccanico, commutato, probabilmente c'è qualche motorino, qualcosa, qualche mio motore riduttore, non so come esattamente si venga fatto, sicuramente è lo stesso principio del polarizzatore meccanico che utilizzo nelle parabole, anzi non lo sto neanche più utilizzando, quando facevo le polarizzazioni destrose e sinistrose c'era un polarizzatore di dietro che commutava. Avrà un motorino passo passo. Sarà una cosa del genere, mi immagino io. La cosa bella, vabbè, c'è da dire che qua lo stiamo usando in trasmissione, queste cose qua, normalmente, vabbè, per chi lo può utilizzare naturalmente, non è il caso mio, però col coso, col satellite, in ricezione puoi fare tutto quello che vuoi, puoi commutare col DISEC, il FAB, eccetera, ci sono tanti sistemi, col cavo di connessione dell'antenna parabolica puoi fare anche motorizzare un'antenna non di grande dimensione, utilizzando lo stesso cavo d'antenna, col DISEC, che è un sistema che esiste già una quindicina d'anni. Purtroppo per il coso non sono ancora riuscito a fare niente di meglio, non c'è una tecnologia ancora per farlo anche in trasmissione, lo stesso principio. Vabbè, non è un problema, mettiamo anche un cavo di rete e comandi tutto, capite? Anche se io per nuovi motivi di stazione quei sistemi non li ho mai messi, perché a me servono tante radio in funzione e tante radio come antenne, quindi quello va bene anche chi ha poche radio, che le vuole commutare, eccetera, eccetera. Ma quando c'è tanti apparati che ognuno deve avere la sua antenna, è tutto un altro discorso. Tutto lì, riprendi Riccardo. ho capito, e mi sono perso che mi hanno chiamato perché stavo facendo un mobiletto per il camper in legno, stava costruendo, e quindi mi sono perso, ho capito questa storia delle antenne comunque. Sì, stavo parlando in generale di sistemi di computazione dell'antenna. Ma tu c'hai molto lunga la calata tua delle antenne, per usare il Cerflex, a parte la rigidità del cavo, ma c'è una calata lunghissima allora. Circa 20 metri, ma è fatto con un altro tipo di cavo che si congiunge al Cerflex, che è il Messi Paloni, che può rimanere anche sott'acqua quello, perché non tenne la durata, perché qua l'acqua penetra per tutto. Quando sei fuori in campagna l'umidità è tremenda. E poi il Cerflex, guarda, è grosso, credo che ci sia un occhiometro, ecco, prendendo l'RG8 che è più conosciuto, non il 58, l'RG8, praticamente tu prendi 3-4 cavi di RG8, li metti a fianco e ottieni lo spessore del mio cavo. No, lo conosco benissimo, il Cerflex a Puglia. Normalmente si usa frangiato quel cavo, mica lo metti sul piede, infatti mi stanno avvisando. E come vai a connetterti con questo? Fanno comprare le flange, che dopo l'esperienza che ho avuto con certi PL professionali, che ne si può anche il cavo, per carità. Li ho saldati, sono saldati in una maniera particolare in modo da avere le minori perdite possibili. Sì, no, in block cutting dopo certe potenze devi utilizzare solo Cerflex, non li usa. La particolarità è che non ha la guaina, c'ha questa specie di rete rigida in rame, però non ne ho mai sentito qua utilizzi normali su apparati di potenze non limitate. Come fai a connetterti dietro all'apparato? Sono solo per VU, capito? Per VHF o HF, perché normali gestiscono due antenne X dalla Diamond X510, 512, cioè non mi ricordo, sì, la però dalla Diamond. Stiamo parlando di VU, no, stavo pensando di HF, come fai a attaccarti dietro? Devi fare delle ispezioni per connetterti, flangiare, eccetera, eccetera, sarebbe troppo problematico. Tutto lo utilizzi solo magari utilizzando un po' di potenza, perché sennò non c'è, non vai alla candela a utilizzare il cavo del genere. No, guarda, per l'HF utilizzo il Messipaloni, quello d'alta qualità, superiore anche alla Camille. Anche quello che può stare sott'acqua ovviamente, perché sennò è un macello, che parte da qua, dalla stazione, arriva fino alle quattro antenne, due verticali e due dipoli da 80 metri che servono tutte le bande. Quelle verticali invece hanno il cosiddetto un accordato ranfale ai loro piedi per un accordo istantaneo, un paio di secondi o per qualunque frequenza. Sì, dai. Ma tu sei in campagna, non credo che per cose te le metti in città. No, ma come fa a mettere in città una cosa del genere? Guarda, è talmente grossa l'installazione che si vede anche dalla strada, da certi punti della strada andando verso Uri. Uno le vede subito perché poi c'ha delle particolari insegne, quindi. Comunque sono parecchie. Sono un po' storte a forza di pigliare colpi, perché colpi ne prendono. Però ci accontentiamo, ma adesso non ho voglia di salire sul traliccio, o meglio sui tralicci, perché sono due. Perché quando sono altri tralicci? No, sono poca roba. Uno credo che sia 6 metri, più ovviamente il tubo che se ne va per conto suo, poi molto più in alto. E l'altro è 10 metri più altri 10 metri di tubo. Ok. Ma c'è una zona abbastanza protetta dal vento, perché cacchio, bisogna stare attenti di lì. No, fa batte forte. Infatti figurati che mi devo cambiare la tettoia perché me l'ha mezzo distrutta, la tettoia dove c'ho un'officina meccanica. Non ha mezzo fabbricata, quindi dobbiamo arrivare a toccare con l'agname, la faccio tutta a legno e basta, cioè o meglio il tetto in legno, perché l'altra è fatta tutti con tubi d'almine e mossetti d'almine. Ok, lasciamo un attimino di bianco, vediamo se nel frattempo qualcuno vuole entrare, se no riprende Riccardo. Avanti, chi vuole entrare? Riccardo, riprendi tu? Sì, riprendo io. E ho capito. Boh, non so da dire. Anche Riccardino ha una bella posizione, c'ha possibilità di mettere qualunque cosa, c'ha un bel appezzamento di terreno, piano piano anche lui si ingrandirà, adesso sta iniziando con, non dico poco, dai, diciamo con qualcosa di abbastanza importante, poi piano piano lui crescerà, si prenderà la patente e farà anche lui delle belle situazioni. Se c'è ancora qualcuno si diverte, perché anche lì i numeri si stanno accorciando vorticosamente. Sì, ormai la radio è morta da quando sono entrati i cellulari, però qualcosina, qualche appassionato già si trova sempre, dai. Il problema è che adesso devi aggiornare tutta le strumentazioni perché è tutto digitale, quelli che magari si accontentavano con un vecchio baracchino, chiamiamo un vecchio apparato, adesso è tutto obsoleto, è tutto da buttare via. No, per me quella regola non vale, perché io sono tutto digitale, cioè il meglio del meglio, quindi c'ho anche ripetitori sulla stessa frequenza, figurati, non credo che ce l'abbiano molti. No, dico che ormai è tutto in digitale, uno se c'ha per dire un apparecchio che per dire 10 anni fa era all'avanguardia, però con la tecnologia che c'è adesso ormai col tempo che passa sarà sempre peggio, alla fine te lo tieni conservato, tipo quando c'è un televisore analogico che adesso è passato digitale e ci butti tutto, non ne fai più niente. Magari quelli HF, io qua ad esempio c'ho un vecchissimo ICR71 che comunque fa il suo lavoro, lo fa bene, perché c'è una radio, una chiarezza di riproduzione che è spettacolare, proprio puoi stare ore e ore e ore ascoltando. Quindi comunque qualche cosa che va molto bene si tiene. Lo stesso c'ho due apparati militari che ricevono veramente bene, nonostante non abbiamo tutti quelle dolcette degli apparati amatoriali, che a me personalmente danno molto fastidio, perché non servono a niente, sono dei gadget quasi, tipo albero di Natale. Infatti c'è molta scenografia, però come tutte le cose, il vintage sempre rimarrà sempre attuale, nel senso è sempre una cosa che sai che è bello, costruito bene, eccetera, eccetera. Io l'ho preso da poco, un bel ricevitore della Trio, una bestia bello grosso, ieri ho attaccato un'antenna multibanda, diciamo, per le HF, non l'avevo mai attaccato con l'antenna sua, e ho fatto un confronto col 440 in bande basse, diciamo. Eppure c'è un suono valvolare, bisogna sentire come tira fuori, c'è l'accordatore dell'antenna incorporato, l'amplificatore dell'antenna, ma tira fuori dei segnali che con il 440 è difficoltoso, lui li riesce a tirare un po' meglio. Sì, ma il 440 è oramai, cioè giusto in CB lo possono usare, perché non è, cosa c'era? Sono dicevi prima, facevamo qualche prova sotto, proprio all'inizio, in onde lunghe. Sì, infatti qualche volta ascolto anche io, dico qualcosa c'è ancora, basso, proprio alla fine. Ok, aspettiamo monopolizzando, avanti Riccardo, dai. Mi sto guardando il trio uguale al tuo, c'è uno che a Sassari che lo vende. E chi è che lo sta vendendo? Lo vende a 225. Il trio quello grosso, il 9R59DS, quello lì. Sì, positivo, trio, scrive così, trio 9R59DS, il ricevitore era M030. Questo è ultimo, veramente c'è a posto di allineamento, di valvole, il mio è fiammante, perfetto, le valvole sono buone, non c'hanno nessun difetto, funzionano tutte le funzioni, cioè i commutatori, i potenziatori, tutto efficiente, l'accordatore funziona perfettamente, il preamplificatore idem. Ho capito, questo, posso dire, stando un il cognome, si chiama Bruno. Non lo so, qualche allevatore che si chiama Bruno lo conosci tu, io? No, non ho molte frequentazioni di allevatori, ne conosco molti, però non li frequento perché mi occupo di un'altra cosa, capito? Ognuno, fortunatamente, tra gli allevatori c'ha la sua nicchia. Sì, magari poi c'è anche un SWL, magari per qualcuno c'aveva un parente o uno zio o un cugino che anni fa, perché era parecchio degli anni 70, questo proprio, c'ha la scala graduata, circolare, non è a coso. Mi sa che è arrivata la pizza, però dai, vi devo lasciare, scusatemi. Ciao, ci sentiamo dopo, dai. Ok, Robè, a dopo, però non dirlo che ti arriva la pizza, perché a me poi viene fame di mangiare la pizza. Ciao Roberto, buona serata, alla prossima. E allora Riccardo, che si dice? Che si dice? Niente, boh. E tutt'altro, sei anche una zona buona, con una buona antenna non dovresti avere particolari problemi. Abbiamo piazzato tutto da poco. Sì, ho ascoltato, prima arrivavi più bassino. A me arrivi, credo, intorno alle 9:20 dovrebbe essere. Però se la zona che penso, sei praticamente in linea ottica, sei pioverosido, quindi vedo anche le macchine che vanno sulla piazzola quando c'hanno le luci accese. Quindi dovresti essere a vista totale. Sono sulle colline, comunque stai arrivando bene, sei 9:20 qui, radio 5. Sì, nonostante la potenza sia molto bassa, a me non piace andare potente, figurati che c'è Lignare, che c'è anche ragnetti sopra che camminano, che fanno la ragnatella. Ho capito. Ok, va bene. Riccardo, anche io ti lascio, vado a mangiare qualcosa. Buona serata e alle prossime. Ok, va bene, vi saluto anche io e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti, tutta la ruota, vabbè, la ruota è ferma, quindi ci sentiamo più tardi, resta in ascolto. Anche se è ferma, l'importante è che non sia sgonfia. Ciao Riccardo, CL, alle prossime. Ok, ciao Gianfra, grazie per il questo, ci sentiamo più tardi, spero di risentirti. Ciao anche a Roberto e Gianni da Porto Torres, se c'è ancora. Pomponio cambio. Attento Pomponio. Attenzione canale Pomponio. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Attento ciucucciù, se copi il ciucucciù. Ora 10. Hola. Chi è? Hola. Ciao Roberto. Ciao Riccardo. Ti ho mandato. Aspetta, ti mando la foto anche di quello con cui stavo trattando. Ma quello che ti ho detto io o quello che mi hai detto tu? No, quello uguale al tuo. Uguale al mio. Ma il trio stai parlando? Il trio. E che? Ma ci hai già parlato? Sì, ci ho già parlato, devo richiamare dopo che anche quello aveva le pizze e ha detto ci sentiamo più tardi. Ma è funzionante? Sì, dice che è funzionante. Ma come vuole? Prezzo trattabile. Quello che mi hai detto tu. Ma l'hai proposto se vuole fare degli scambi? No, non gliel'ho proposto. Tu se c'è qualcosa che non ti interessa, qualche baracchino, qualche apparato, qualcosa, dici guarda, vuoi fare delle permute, così dargli tutti i soldi e gli dai qualcosa. Ma è un tipo strano. Ma chi ha chiamato, tu o tuo padre? Babbo, mica lo faccio. Ciao Roberto. Ciao Sam, ma cos'è, un ragazzo? Mi sembra una persona grande, ma è un tipo un po' strano. come mai ce l'hai? Le ha chiesto qualche domanda, come mai ce l'ha con l'apparato? No, mi ha detto che per i dettagli di sentirmi più tardi, perché aveva le pizze in macchina, cioè cose da matti, non ti chiama. E poi dice, comunque le faccio sapere, la parte a posto, una voce strana, capito, mi è doppificato. Ma giovane avanza? No, mi è sembrato grande. Sano, perché questi apparati costavano una barca di soldi all'epoca. O qualche vecchio radioamatore, o l'ha ritirato da qualcuno, Sì, ma adesso è un vecchio radioamatore, perché c'è anche carichi fittizi in vendita. E poi cosa c'ha? Sì, computer, un po' di roba, anche roba vintage. Guarda se c'ha qualche commutatore grosso, almeno oltre tre posizioni. E adesso stiamo cercando di ricontattarlo, perché dice che stava mangiando le pizze. E doveva essere uscito appena la pizzeria, c'erano le pizze in macchina. Appena adesso ci stiamo un attimo dando un po' di tregua, dopodiché lo vediamo un po' di risentirlo e chiediamo un po' di cose. Ma è qua a Sassari questo? Sì. Con quel nome non mi dice niente, Oh, ma guarda, io l'ho sentito per voce, è tipo strano. Tu non lo so, tipo strano. E allora stai molto attento, occhi aperti e orecchie aperte soprattutto. Poi va bene, questo già lo so, ma non mi preoccupa più di tanto, perché poi dopo quando ci dobbiamo incontrare uno un po' si fa un'idea e vede un pochettino se è un perdita di tempo o se sta cercando altro. Assolutamente, poi fallo provare, se c'è modo di farlo provare, se c'è un posto per farlo provare, non te lo portare a casa sicuramente. Ma no, che lui non te lo dà, gli dici lo provo e poi ti do un acconto, e gli dici così, se è una persona, oppure dice fammelo sentire in antenna. Va bene, tu comunque l'hai provato il tuo e va bene, sei soddisfatto? Assolutamente, mi l'ho provato, adesso più tardi provo anche in coso, in notturna, perché stamattina l'ho provato, l'ho acceso in, come si chiama, diurna, ma diurna non è che prendi più di tanto, però già agganciava qualche stazione, già la prendeva, voglio provare stanotte, che stanotte quando c'è l'umidità le propagazioni aumentano, cioè i segnali li ricevi da lontano. Comunque ho ricevuto un sacco di canali stamattina. Ma uscivano tutti con questa colorazione verde militare? Sì, una specie di colore aviazione, dai, di quelli, le vecchie, diciamo verde militare, tipo il Sommer Camp, dai, si assomiglia a tanto. Perché ho visto nella foto, ho pubblicato le foto sia dell'apparato frontale e interno, eccetera, eccetera, ma deve essere, adesso vediamo, comunque ti tengo informato. No, per quel prezzo che mi avete detto, se poi riuscite a tirarli fuori anche quei decimali è ancora meglio, e c'è sempre un apparato che qualunque momento lo vuoi vendere c'è sempre l'acquirente, è un bel apparato, sperando naturalmente che sia tutto efficiente, controlla tutti i commutatori, nel senso le commutazioni, perché quello c'ha le bande, c'ha 1, 2, 3, 4 bande, c'ha quell'apparecchio, poi c'ha i tipi, c'ha il filtro in AM, questo send che non ho capito, send, forse deve essere qualche banda particolare, poi c'ha le bande laterali, c'ha l'accordatore d'antenna, come si chiama, il preamplificatore d'antenna pure. Ho capito, dai. Non è male, visto così non è male, ma molte valvole c'ha. Mi sembra che c'ha 5 valvole, è enorme, il nostro settore di quando l'hai visto è molto grande. Così mi sto rendendo conto un po' dalle foto, confrontato con altri oggetti, mi sembra grosso. Peserà anche, magari dai 15 18 kg o no? Sì, bene proprio. Sì, c'ho il metro, se c'è un metro per fare un raffronto, adesso ti dico quanto è largo quell'apparato. C'è un metro del vicino? Sì. 38 per 18 di altezza. Insomma, è bello grosso, dai. Sì, ma è anche profondo, mi sto dicendo, è enorme. Oh, sì, le profondità me lo ricordo che erano abbastanza larghi, perché ne avevo visto degli altri da un'altra parte. No, più grande di quello è col ricevitore professionale laboratorio, che facevo io, l'altro è 44 di larghezza. Figuriamoci. Guarda, di dimensioni è quanto i satelliti, il Grundig, quella specie di ricevitore multibanda, scusa, quel ricevitore multibanda che ho io, di larghezza più o meno, per capire le dimensioni. Oh, bello, come apparato mi sembra bello. Adesso vediamo un pochettino questo qua cosa mi dice, perché ho sentito che era un po' così, con la puzza sotto il naso, adesso vediamo, magari sono chiamato in un momento secondo me delicato, proprio a sentire, vediamo cosa mi dice. Sì, vedi un pochettino, poi valuta la persona, se vedi che è appena inaffidabile, lascia perdere. Però dillo, in ogni caso, se mi avete d'accordo, io ti do i soldi, però lo voglio sentire, fammelo provare, fallo accendere, e vedi un po'. È marcato trio comunque il vostro. Sì, ma già lo sai che quando si è abituato a andare così per inserzioni, eccetera, persone strane ne trovi, anzi è più facile trovare quelle che quelle normali. Sicuramente, ma poi c'è gente che racconta certe balle, apparecchio maniacale, perfetto, poi vai a provare. Vedi i difetti, di cose stranissime, difetti strani, qualcuno se ne vuole. Io sinceramente non ho mai venduto niente, ho fatto degli scambi, delle cose, ma mai mi permetterei di dare una cosa che non funziona. Cioè glielo dico, guarda che vendono così come si trova, con tutti i difetti e con tutti i pregi, quello sì, però vendere una cosa per nuova quando c'ha dei problemi non esiste da parte mia. No, quello sì, perché se non vuoi prendere fregature non ti piace neanche darne, quello è normale. Però poi il problema è che di solito dall'altra parte ti ritrovi sempre una persona un po' strana, dove è anche difficile parlare, dialogare, confrontarsi e mettersi d'accordo, non è semplice. L'altra sera siamo andati a vedere un camper americano e credimi, tutto potevo immaginarmi di trovare, ma non un tipo del genere, con una tippa, cioè, ma poi magari te li descrivo in verticale così. Ed era uno che aveva macchine rottamate, anche, è capitato questo camper americano degli anni 90, ma è una riproduzione vintage, e stava sparando delle cifre assurde, non ci si è potuto trovare un accordo perché aveva delle pretese incredibili. Ma quello sta andando prima del portotto reso sulla destra, quello lì è per caso? No, questo ce l'aveva chiuso dentro un capannone alle spalle, di fronte a Bricome. Di fronte a Bricome. È un camper, che camper, ma cos'è, motorhome o che cosa? È un GMC 6002 diesel. Ti ricordi, Roberto, dove c'era quel negozio di mobili che poi ha fallito prima di arrivare al semaforo da Bricome? Ho capito quel mezzo cos'è. Quello lì è un autocilindri diesel americano, sicuro con la patente C. Ce l'ho le fotografie di quello lì. Ma nelle fotografie non sembra brutto. No, non è brutto, no. È che gli ha fatto una proposta che doveva essere più vantaggiosa per lui, ma ha sparato cose assurde. Pensava di voler fare chissà quali soldi. Cioè, già la cifra, ma a parte che è un patente C e non è tutti che lo possono usare. È un motore grosso e a molti spaventa. È grosso anche di dimensioni, quindi voglio dire, non è facile da commercializzare. Dici, aspetta, lo sto cercando, come l'ho salvato quell'affare lì? Sì, è partito prima con 14.000 euro, poi si è sceso a 12, ma è una cifra che non è facile da realizzare, perché devi trovare proprio l'amatore, ma l'amatore è proprio disposto a spendere una cifra del genere, non è facile, anche perché quei motori lì devono essere innanzitutto trattati bene, perché se hai problemi è una disgrazia a metterci mano. Ma deve essere quello, GMC era americano, sì, già lui, adesso lo sto cercando, non me lo ritrovo. Sì, ma è uno che praticamente è una specie di mezzo carrozziere, è uno che dà sistema alle macchine e poi le rivende, c'ha annunci anche di macchine da 200 euro, 300 euro, capito? Già ho capito di chi stai parlando. Magari lo conosci perché il cognome inizia con la D. Ho capito. E come mai gli è capitato in mano questa bestia? Oh, non te lo so dire, ma sicuramente ci ha fatto dei progetti strani, perché praticamente è senza casa, è una specie di... mi ha dato una sensazione di vagabondo. Sta cercando adesso un terreno in affitto, ma sicuramente l'ho usato per abitarci. Quello GMC Allegro, è quello, sono delle cose fasce verdi, marrone e beige. Sì, esatto, quello è un bel mezzo, se è trattato bene c'ha già tanti anni, ma ne fa altri tanti. E di che anno è? Questo sarà anni 80, perché è tra anni 90? No, perché è stato immatricolato negli anni 90, ma è un vintage, praticamente quel camper lì quel modello lì era stato fatto anche negli anni 60, poi lo hanno ripresentato, capito, come modello. Sì. Sì, no, c'è anche la lavatrice, mi sembra quello lì. C'è un bel forno, una bella cucina con forno, congelatore, aspetta, c'è un bel frigo grande, vabbè, TV già ce l'hanno tutti, forno a microonde. Sì, esatto, ma poi l'interno devi vedere, l'interno è, vabbè, io già li conoscevo. L'interno è spettacolare, è tutto in legno, è proprio vintage, stile, stiamo parlando tipo anni 60. Sì, sì, c'è il cambio automatico, patente C revisionato l'anno scorso, gommato, è andato, faccio il all'interno di vano letto comodo come quello di casa, cucina quattro fuochi con forno a microonde, aria condizionata in cielo e gambina, bagno con armadio ampio lavabo, bucci scarico da serbatoio da 100 litri, vasca da bagno pure c'è, che è assurdo, lancia di treno e scalino elettrico, frigo di ultima generazione a compressore, cosa, chissà cosa costa. Allora, pannello solare da 300 watt, sono tanti, modificato l'azienda italiana, produce in un giornata adesso le ben 21 ampere ora, è tanto, due batterie MOS nuove, tre batterie di gel di servizi nuove da 100 ampere l'una, la batteria al gel solo esclusivamente da altri, quante cacche di batterie c'è a questo tempo? Praticamente ho controllato il frigo e come dice lui al compressore, c'è una batteria, ma di quelle di batterie da camion, però di quelle un po' anche vecchiotte, dedicata soltanto al frigo, e poi le altre batterie non le ho viste, le ho detto che sono al gel per i pannelli solari, ma non lo so, ma è enorme, nella foto non rende, è grosso, quindi andare in giro con una cosa del genere non è neanche una cosa semplice. Ma lo immagino, facciamo la vasca da bagno, cacchio, figurati, ci sono 2, 5, 6 batterie c'ha questo campo. Sì, perché deve alimentare un sacco di roba, ma credo, se non sbaglio, c'era anche il gruppo elettrogeno, non vorrei sbagliare. Comunque enorme, il bagno sì, c'è la vasca da bagno, un bagnetto, insomma non male, era, e vabbè, gli americani già lo sai che sono un pochettino stravaganti, amano le comodità, per cui non si mettono problemi, quando si tratta di arredare non vanno a spese. No, questo è tipo quelli che usano il circo, le giostre, fanno le carovane che fanno, probabilmente questo è recuperato da qualche carovana di circo, cosa del genere, questa è proprio una città, almeno una città, un appartamento. Poi non capisco come fa a diventare 5 batterie da cosa le ricarica, come che non si attacca a qualche colonnina, come cacchio fa le colonnine se vai al camping, non arrivano, facciano massimo 800 watt di potenza. No, ma infatti secondo me lui è esagerato, ma perché mi ha dato la sensazione proprio che perché lui lo usava come abitazione, perché poi c'è un altro annuncio dove sta cercando una casa in affitto, una campagna, perché vuole portarci un sacco di, cioè, detto, c'è un sacco di macchine rottami, cioè, ci aveva lì parcheggiato anche un maggiolone cabrio tutto sverniciato e senza la cappotta, e gli mancava un sacco di altri accessori tipo sedili interni, i fari. Ma diciamo il prezzo secondo me non è eccessivo, naturalmente deve essere sia tutto efficiente, guardalo così sembra abbastanza in ordine, il problema è che cazzo per manovrare con la mano quel mezzo lì non è che lo usi per farti i girettini, quello è un po' esagerato, troppo grande. No, è enorme, non è facile, ti ho detto che è soltanto per appassionati, a me piace il modello e ci avrei fatto un pensierino e gli ho fatto anche la proposta, ma non gli è andata bene perché voleva siccome gli volevo dare una permuta parziale, ma voleva anche soldi, perché sicuramente non naviga in acque molto tranquille, però cioè, chi se lo potrebbe permettere sarebbe un anziano, no? Di quelli che vanno in pensione, si prendono il camper, ma dove vai con una cosa del genere che è inguidabile per le dimensioni, per le nostre strade, quindi non è una cosa semplice. Un giovane non se lo può permettere, perché non è che trovi un giovane disposto a cacciare fuori 12.000 euro così, già lo sai. Poi c'è il discorso della patente, c'è una patente C, non tutti ce l'hanno. La patente C, ma è l'altro problema grosso, sai qual è? Che quello, la revisione la devi fare in motorizzazione. Io lo so, quello è già come che sia un autocarro, non è omologato tipo vettura, come di superare i 35 quintali. È chiaro, ma poi quando vai in motorizzazione come si sta andando, è come se vuoi passare la frontiera in una dogana. Io lo so, ti controllano anche le mutande, se ce le hai pulite. Quindi devi avere i freni che devono essere eccezionali, l'impianto elettrico non ne parliamo, Poi soprattutto per quanto riguarda le emissioni, che oggi con un diesel gli stanno facendo la guerra, puoi immaginare. Vabbè, quello delle emissioni gli appassi, perché sono abbastanza, i valori di legge sono molto in base all'anno, certo non ti danno, quando tu fai un mezzo d'epoca, le emissioni del diesel sono completamente diverse da fare 1,5€, 1,4€, se questo c'è un mezzo euro zero, i parametri sono talmente larghi, per cui ho visto delle macchine con dei fumi allucinanti, passano comunque. Il problema più grave sono i freni, è più difficile da sistemare. Infatti, nulla. Sono spese poi, tutto un insieme di spese, cioè io sono cosciente quando acquisto un mezzo che poi la manutenzione costa, non è tanto acquistarlo ma anche la manutenzione che devi fare, perché poi non sai mai in che mani è passato, l'incognita è quella, non sai chi ce l'ha avuto, se lo ha trattato nella maniera dovuta oppure se lo sono passati da una mano all'altra senza tenere le necessarie cure, le manutenzioni. Diciamo, sui camper normalmente le usano delle persone abbastanza ordinate, scrupolose, eccetera. Se fosse magari un camioncino, un pulmino, bisogna stare attenti quando sono vicini. Ma i camper normalmente chi ce li aveva li teneva sempre efficienti. Poi bisogna vedere magari l'ultimo proprietario, che è di quelli che ce l'ha 3-4 anni, buttato, fermo, non gli ha mai fatto un cambio d'olio, un filtro e niente. Quello magari devi stare attento. Sì, ma poi la cosa che più preoccupa è la pompa di iniezione, perché quella se la lasci ferma e non la fai funzionare a dovere, secondo me poi ha problemi. Appunto, quelle sono rotative, mi sembra, con le pompe. E poi c'è da dire una cosa, i pezzi dove li trovi con le pompe, se per dire devi fare gli iniettori, i polverizzatori, certo, non è un motore comune quello. No, quello sì, però diciamo che oggi non c'è più quel problema, oggi i pezzi li compro dall'America e arrivano anche un po' in ritardo rispetto, massimo 15 giorni rispetto all'Italia, in Italia addirittura ti arriva. Una volta per eccezione mi è arrivato in 2 giorni, perché ha trovato la coincidenza e il pezzo è partito da Miami, Milano, Milano-Sardegna, ma è stata una cosa eccezionale. Però oggi i problemi di trovare i pezzi non ce n'è, perché con internet e con i soldi ti arriva tutto a casa. Ma abbiate aperto le dogane, io conosco gente che è rimasta tanti mesi buttata in dogana la roba. Ma evidentemente gli hanno applicato una sovrattassa e non li hanno ritirati, perché poi anche lì fanno i furbi, adesso stanno tassando tutto quello che gli passa sotto per fare soldi, capito? Io lo so, e tu lo so anche di me, io conosco gente che ha ordinato degli apparati usati e li stavano facendo pagare l'IVA, un sacco di studi, eccetera eccetera. Allora, per legge sino a 25 euro non dovessi pagare nulla. Mi hanno fatto pagare il dazio anche su oggetti da 10 euro, da 15 euro, 20 euro, che poi sproporzionati pure, perché paghi una dogana su un pacco da 20 euro, paghi una dogana di 7 euro, 10 euro, 13 euro, 15 euro, è assurdo. Sì, ma se c'avevi un contatto, io c'avevo un amico che c'era, il cognato lavorava all'atto, gli faceva arrivare qualunque cosa, autoradio, televisori, telefonini ancora no, perché non ce n'erano, ma di tutto e di più gli faceva arrivare, cazzo. Arrivavano direttamente alla base, immediatamente, dopo pochi giorni, non è roba lunga, e gli facevano il catalogo questi dalla NATO, ma tu vedevi cosa c'era di roba, anche un televisore, un frigorifero, la matrice, qualunque cosa volevi, se non ordinavi ti arrivava in pochi giorni, direttamente alla base. Sì, lo so, allora facevano la pace, non so, quegli spazi erano incredibili, vendevano di tutto. Il problema è adesso non sfugge via niente. Poi soprattutto le ditte, se non compri da un privato, le ditte dichiarano in maniera esatta quello che contiene, e per cui sulla base di quello i finanzieri ti applicano l'IVA eccetera eccetera. Io lo so, bisogna avere grande esperienza acquistare, tu sicuramente l'avrei fatto, io non ho mai acquistato, io ho una parente, ho mia cugina, teoricamente se mi serve qualcosa lei me l'ha detto, che a Filadelfia c'è una vita, ha detto se ti serve qualcosa te la posso mandare io, però cacchio, vabbè, non è che ce ne sarebbero tante di cose da mandare, però ho preferito mai lasciar perdere. Ma guarda, i prezzi comunque tutto sommato ne vale la pena, compro dei ricambi a prezzi assurdi, c'è un gruppo come lo posso chiamare, il buco posteriore, il buco ottico completo, $10, ma ti rendi conto? Già me l'avevi detto, ma informazione, ma hai toccato il Mickey Gang o stai parlando troppo vicino al microfono? No, forse stavo parlando troppo vicino, Roberto. E sento un leggero gracchiolio. Aspetta, magari lo diminuisco un pochettino, non lo so, però forse mi stavo avvicinando troppo al microfono. A due ce l'hai tu il Mickey Gang? No, quello del microfono non l'ho toccato, ho toccato quello dell'apparato. Quello apparato a quanto ce l'hai? Due. Non tenerlo più alto di due, perché la torta l'avevamo fatto delle prove e tendi a strappare. Se sei troppo vicino, idem. Se tieniti giusta le giuste distanze. Ok, no, già me l'hai detto l'altro giorno, anche quel bulbardi davanti l'avevi pagato una cifra assurda. Il problema bisogna avere i contatti giusti. In America trovi qualunque cosa, ma poi non parliamo di apparecchi audio, cosa c'è di lì. Molte volte quando entro su eBay americano, USA, chiaro che ci sono dei prezzi da paura, dico, ma è possibile che qua in Italia, da, parlo di amplificatori di grandissime marche, prestigiosi, a prezzi che noi costano quattro volte tanto? No, perché là i prezzi comunque sono popolari, non hanno la stessa concezione nostra di dover massacrare il cliente. Quindi vengono sulla quantità e hanno dei punti, i ricambi hanno ad esempio punti di riferimento in ogni stato americano, fanno le cose alla grande. Quindi se a magazzino non lo trova il ricambio nello stato dove risiede la ditta, te lo fa ritrovare da un'altra parte, te lo ritrova, gli manda da me e te lo fa spedire. Cioè sono organizzati in una maniera completamente diversa, non si mettono problemi e ti spediscono di tutto senza nessuna remora. Rispetto ad altri stati, che poi ad esempio se tu compri i tedeschi ad esempio sono differenti nei nostri confronti, certi siti tedeschi non spediscono in Italia. Sì, capita, già quello già è vero, già lo so. Ci sono anche le belle cose, no, ma non parliamo di nautica. Io c'ho un amico che loro andavano negli Stati Uniti a Miami proprio a acquistare le barche, le vendevano a pagare in dollari naturalmente, di lì ci portavano un po' di soldini, ma qua se le vendevano 3-4 volte, si scrap, si mostro vuole, andavano, le prendevano, se facevano caricare sui container quelli che ci stavano oppure in altri mezzi più importanti. Ma cosa ne ha portato qua in Sardegna? Questo, ma se parliamo ai tempi che furono 30-40 anni fa, ma lui portava un sacco di roba da lì. Ci sono delle barche che tu dici, cacchio, tu vai a comprare un gommone cagato da qua, ti sparano oggi per Madrid, ti vedi dalle barche con motori allucinanti, con tutte le cose possibili e immaginabili di ultima, dal frigorifero al congelatore, vasca per il vivo, VHF, tutto, e poi vai a vederlo e dici, non è possibile che la vendano a quei prezzi, ma barche di un certo livello, di scafi assolutamente di qualità, di tenuta di mare. Sì, ma perché sono molto più avanti di noi, quindi le cose le usano, non hanno la filosofia di aspettare un domani per comprarsi una cosa, la vivono ogni giorno, quindi spendono, cambiano spesso, si aggiornano, non sono come noi e quindi le cose le fanno girare. Tant'è vero che se tu vedi ancora gli insegnanti in America, quando vanno a comprare, a pagare, pagano in contanti, da noi i contanti li vogliono far sparire. Già guardo ogni tanto con la trasmissione il manco dei pugni, quello che sono nonno, padre, figli che vengono, come si chiama, che vai a acquistare lo stesso di lì, come si chiama quel programma, non mi ricordo, però l'hanno accolto a cielo, alle 8:30, no? Sì, sono sempre quei manco dei pugni che esistono un po' dappertutto e che comunque anche quelli fanno girare un'economia non indifferente. Questo è il senso della libertà che loro ancora hanno e ci tengono, la difesa personale, per cui dentro casa nessuno ti può aggredire, se qualcuno ti aggredisce ti difendi, e poi soprattutto la libertà del contante, e loro invece lo vogliono far sparire perché vogliono metterci tutti sotto controllo, hanno un'idea completamente distorta di quello che è la libertà individuale qua in Italia, quindi ancora siamo indietro per quello, poi per altre cose magari siamo avanti. Sì, purtroppo si parla sempre peggio. Tu basta avere una cena in Cina, ti mette le mani in testa. Adesso sono tutti, come si chiama, chiamiamoli volgarmente microchippati, perché tu c'hai un telefonino con l'applicazione, tu in qualunque posto che entri devi appoggiare questo codice QR in tutta la metropolitana, gli stadi, i teatri, qualunque cosa, e sanno la tua vita, dove sei nato, cosa hai fatto, da dove stai venendo, a che ora sei entrato in questa stazione, da che stazione sei venuto, che malattia hai avuto, c'hai tipo la tessera sanitaria sul cellulare, devono avere tutti. Poi c'hai il punteggio, ti danno 1000 punti, tu, ognuno di noi, di loro c'ha 1000 punti, per dire, tu butti un pezzo di carta per terra, 50 punti ti tolgono. Sei passato col rosso a piedi, attraversando col piedi nel passaggio peruale, 100 punti, però ne puoi riguadagnare se, per dire, succede un atto criminale, tu vari segnali che quello lì ha fatto un atto criminale, la persona ne te ne danno altri 200, per dire. C'era una tipa che ne hanno tolto tutti i punti e non puoi andare da nessuna parte. Una ragazza, era la madre, aveva una 60 anni, questa figlia stava parlando una 30 anni, ha fatto una, diciamo, una specie di polemica, perché stavano sgombrando questo palazzo dove c'erano delle famiglie eccetera eccetera, perché di lì decidono, beh, da oggi a domani ti buttano dentro il palazzo all'Angiardi, e questa gli hanno tolto tutti i punti, dice, io non posso fare più niente, e non solo io ho una figlia di 2 anni, siamo come siamo, senza vita, nel senso non possiamo andare negli autobus, non possiamo entrare in farmacia, non possiamo fare niente. Si è appellata al tribunale, l'hanno rigettata, per dire a che punto è arrivata la Cina. Sì, no, la Cina ha subito anni di dittatura maoista, non è da sottovalutare, i cinesi sono già inquadrati per natura, e poi sono predisposti anche un po' a essere sottomessi, però allo stesso tempo sono abbastanza, dietro che si dà da fare, sono anche molto viziosi, hanno queste capacità nel quanto riguarda tutti i settori, si adattano, e quindi non bisogna sottovalutarli, noi li abbiamo sottovalutati, poi vedi che anche loro intaccano l'economia di ogni paese dove arrivano. No, io non ho mai sottovalutato i cinesi, anzi è un popolo per certi versi da ammirare per quello che fanno, purtroppo, come hai detto tu, loro non hanno mai conosciuto la libertà. Da secoli, da quando c'erano gli imperatori, a succedere Mao e sino adesso con questo regime che c'è qua, loro hanno avuto sempre un regime totalitario, un dittatoriale, per cui non esiste la libertà, di lì comanda lo Stato, pochi eletti che decidono la vita e la morte. Un giorno ti racconterò dei particolari di un amico, che c'è un amico suo che lavora lì in Cina, mi ha raccontato delle cose tipo ai tempi di El Feudatario, che decideva la vita e la morte delle persone. Questo è così, in questa industria che si è aperto, dice lui, la cosa che gli fa più male è vedere queste situazioni qua, sui dipendenti. Quindi questo è quello poi che riusciamo a sapere, quello che non riusciamo a sapere, e poi sarà ancora peggiore di questa realtà. E cosa ci vuoi fare, purtroppo? Ogni Stato ci trascina dietro i suoi dati positivi e i suoi dati negativi, però poi alla fine quello che è importante è la libertà individuale, che va sempre tutelata di noi, altrimenti siamo andati a fare una brutta fine, perché ci stanno ingabbiando piano piano, e lo fanno in un lasso di tempo, lo diminuiscono in un tempo lungo, dove a un certo punto ci ritroviamo in quella situazione senza che neanche ce ne siamo accorti. Sì, avanti, prego. Però oggi non mi piace, caro Claudio. Eri perfetto, che cacchio ha combinato? Sì. Claudio, stai un po' graziando di radio. Claudio, mi ha fatto i complimenti ieri, ci credi? C'era la modulazione bellissima, forte, chiara, adesso di nuovo ritornata ai tempi antichi. No, l'ho sentito anch'io, ma magari c'è qualche contatto, qualcosa che non va. Il tempo di lasciarlo sistemare, poi ritorna come lo sentivamo ieri, dai. Eia, tu stavi dicendo che il nostro futuro, c'è già il nostro futuro di schedatura, aspetta un pochettino per il vaccino, cosa ne esce tu, soprattutto nel lavoro che fai tu, perché tu sarai obbligato, io spero che mi sbagli, però io questa cosa l'ho detto da febbraio, attenzione al vaccino, il vaccino esiste già da prima che successe questo fatto qua, e te lo dico con certezza questo fatto qua, che ha avuto delle informazioni e si sapeva già da prima che doveva venire tutto questo problema qua, che certi tipi di attività lo sapevano già da prima, avevano degli avvisi prima che avvisassero la popolazione. preallarmazione, erano già in preallarme, per cui ci hanno nascosto un sacco di balle a noi. Così il vaccino esiste già, è tutta una storia di panico, per creare panico alle popolazioni. Piano piano qualcuno se ne sta accorgendo e speriamo che si ribelli la gente, però io la paura mia è che delle attività, anche soprattutto quelli dove lavorano in enti pubblici, pulizia, servizi di coso, per il contatto col pubblico, saranno costretti a farsi il vaccino, se no tutti i sanitari, se no dicono no, tu non puoi entrare qua dentro. Poi io come libero cittadino mi posso vietare, cioè posso rifiutare, però dico vabbè, tu non ti fai il vaccino, tu non puoi entrare allo stadio, tu non puoi andare a teatro, tu non ti puoi imbarcare in nave, ti potranno costringere a qualcuno a fare il vaccino per forza, cioè per forza relativamente, diciamo. Vabbè certo, ma in meraviglia, ma tutta, prima o poi guarda che arriviamo al microchip sotto pelle, quindi come lo fanno per i cani e altri animali, non ti meravigliare. Sì, registrato. Allora, il microchip esiste già, lo stanno già facendo, diciamo, anche in Italia qualcuno l'ha già fatto, negli Stati Uniti. Ma qual è l'ultima cosa? Se ti guardi quel film, che forse l'avete visto tutti, quello è un futuro che mi auguro non accada mai, che ti danno il tempo di vita, perché c'è possibilità che arriviamo anche non noi, magari altre generazioni future, 10 generazioni dopo di noi, che ti mettono il timer, che come quando arrivi a quel punto lì si scarica e ti elimini da solo, come non so se avete mai visto che nel posto c'era una specie di conto alla rovescia, non mi ricordo come si chiamava quel film, Time and Light, una cosa del genere, e alla fine sono riusciti questi a scappare perché dovevi acquistare questi minuti o queste ore, ti davano, a seconda di cosa facevi, ti davano 10 ore in più, un giorno in più di vita, eccetera, e tu avevi un cronometro che partiva al contrario, quando arrivavi a zero, morivi, ti addormentavi e morivi. Sì,